rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Oggi iniziamo da un quotidiano tedesco, la Süddeutsche Zeitung, che è uno dei più importanti quotidiani della Germania, è appunto, come dice il titolo, Süddeutsche, del sud della Germania, e in questo caso è stata Federica Mogherini, la cosiddetta Lady Pesk, cioè il ministro degli esteri dell'Unione Europea, se vogliamo, anche se poi naturalmente sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che è come se fosse un ministero senza portafoglio, perché poi in realtà non abbiamo una politica estera comune, però intanto abbiamo un ministro degli esteri, e in questo ruolo Federica Mogherini ha detto a questo quotidiano tedesco che le divisioni fra i paesi europei sulla questione dei rifugiati minano la credibilità dell'Unione di fronte al resto del mondo. Ha anche proprio Federica Mogherini parlato di una perdita di influenza considerevole se non riusciremo ad assumere collettivamente le nostre responsabilità. Non tentiamo di far valere i nostri valori in altre parti del mondo, ma questo non potrà funzionare se a casa nostra non vi è rispetto delle minoranze, a cominciare dai musulmani, ha poi aggiunto la Mogherini. Le parole che sono piovute in questi giorni e le recinzioni che sono state erette resteranno quantomeno nella memoria. Sappiamo che c'è stato questo piano di ridistribuzione dei profughi, l'ultimo numero che si è fatto è 120.000, e però sappiamo anche che il cosiddetto blocco dei paesi dell'est dell'Unione ha detto di no, e quindi questa intervista è un po' la risposta ufficiale, ma come dicevamo all'inizio sono un po' purtroppo parole che cadono nel vuoto, perché di fatto Federica Mogherini non ha la auctoritas per imporre una misura europea a tutti i paesi dell'Unione Europea. Passiamo a un'altra grande questione, quanto ce ne siamo occupati, finalmente sono arrivate le elezioni, domenica scorsa le elezioni in Grecia, e ci sono stati naturalmente tantissimi commenti, ne vedremo alcuni dei giornali greci, ma per esempio a François Hollande, che è uno dei leader di centro-sinistra più in difficoltà in Europa, perché sappiamo che nei sondaggi è dato come perdente alle prossime presidenziali francesi, e però ha commentato appunto che la vittoria elettorale di Alexis Tsipras in Grecia è un messaggio importante, lo ha detto a Le Figaro, che tra l'altro è un quotidiano di centrodestra, per la sinistra europea. Hollande naturalmente si è felicitato con il leader di Syriza, questo partito che in realtà non è di centrosinistra, è proprio di sinistra, secondo alcuni è addirittura di estrema sinistra, e ha promesso di recarsi presto in visita ad Atene. El País invece si è occupato, vi risparmio naturalmente tutti i quotidiani tedeschi sulla vicenda Volkswagen, di cui abbiamo letto tantissimo anche sui giornali italiani. Vi segnalo però l'articolo di El País, perché partendo dal fatto che la SEAT, che è un marchio spagnolo ma controllato dal gruppo Volkswagen, è stato acquistato anni fa, ha ammesso che alcuni dei suoi modelli sono stati equipaggiati negli ultimi anni con i motori diesel del tipo EA189, finiti sotto inchiesta per la manomissione delle emissioni. C'è stata una conferma di alcune indiscrezioni iniziali, e ora la SEAT ha dichiarato anche a El País, anche per rispondere a El País, che si sta indagando su tutto, ma che per ora non si possono dare informazioni più precise. Sicuramente ne leggeremo ancora. Vi segnalo una notizia buona, perché sappiamo quanto spesso si parli di petrolio quando si parla del turismo nel nostro paese, di quanto forse non siamo ancora in grado di usare questo petrolio più o meno nascosto che abbiamo per finanziare, per dare spinta alla ripresa economica. Euronews ci racconta con i dati del 2014 che nello scorso anno appunto l'Italia è stata la prima destinazione dell'Unione Europea per i turisti che provengono dai paesi extra UE. Questi dati Eurostat, che sono stati dati pubblicati in occasione della giornata mondiale del turismo, indica che i viaggiatori extraeuropei hanno passato il 17,5% delle notti in Italia, rispetto al 13,9% nel Regno Unito, che è al secondo posto, al 13,5% della Spagna, al 12,2% della Francia. I turisti americani sono stati mediamente in tre paesi, sapete che è abbastanza comune questo, non solo per gli americani ma in generale per i turisti extraeuropei, cioè considerano l'Europa un po' come appunto un posto, ogni giorno si può cambiare paese, ogni giorno quasi, e in ogni caso appunto per gli americani sono tre paesi, e lo stesso vale per i cinesi. In entrambi i casi questi tre paesi visitati in un unico viaggio sono Regno Unito, Italia e Francia. I russi invece hanno visitato Spagna, Grecia, Italia, i giapponesi l'Italia e la Francia. I brasiliani in Europa hanno scelto invece di viaggiare prevalentemente in Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Ma torniamo alla questione dei migranti, che è veramente forse la più importante, quella su cui occorre riflettere oltre la cronaca. E allora, per esempio, un articolo pubblicato dal quotidiano svizzero di lingua francese, Le Temps, intitolato L'illusione delle frontiere è finita, dice: gli accordi di Dublino in frantumi, lo spazio Schengen in ginocchio, la crisi dei profughi sta facendo saltare il meccanismo con cui l'Unione pensava di mettersi al riparo dal mondo esterno, frontiere esterne sigillate e uno spazio interno pieno di libertà. Sulla carta era un sistema perfetto, efficace e razionale, che in materia di richieste di asilo evitava i doppioni e garantiva l'ordine e la tranquillità. In realtà, invece, era un modo per tenere alla larga i mendicanti e relegarli ai margini, in Grecia, Spagna e Italia, ma da tempo il sistema non dava più nemmeno l'illusione di funzionare. È naturalmente una visione un po' pessimistica, e del resto abbiamo visto tanti avanti e indietro, marcia avanti e marcia indietro su queste questioni, quindi forse lo sguardo più lucido, anche se in apparenza più crudele, è forse quello da cui ripartire per un ragionamento diverso. E vediamo allora, per esempio, tornando alla Süddeutsche Zeitung, l'opinione di Stefan Cornelius, un giornalista di questo quotidiano, che racconta che cosa ha voluto dire la presa di posizione forte di Angela Merkel a favore di un aumento delle quote dei migranti, in particolare dei richiedenti asilo dalla Siria, e poi il messaggio successivo di controlli più decisi alle frontiere. E allora scrive appunto la Süddeutsche Zeitung: sono passate 2 settimane da quando Angela Merkel ha lanciato la generosa offensiva della Germania a favore dei profughi al grido di ce la faremo. Il 13 settembre il governo tedesco ha fatto una spettacolare marcia indietro ammettendo che no, non ce la faremo. Per la cancelliera significava ammettere un errore di valutazione politica come non ne ha mai commessi in 10 anni di mandato. Un duro conflitto politico incombe sul paese, e per l'Europa il messaggio è: la Germania ha capito che non potrà rivoluzionare da sola la politica dell'Unione sui migranti. E a proposito di migranti, soprattutto di richiedenti asilo, perché quasi tutti i siriani, anzi direi proprio tutti, poiché scappano da una guerra civile, hanno diritto di chiedere asilo, e quindi su questo si scrive dalle colonne di Internazionale. Nathalie Nougaillered, che abbiamo già citato in passato, è una giornalista francese che è stata corrispondente di Liberation e della BBC dalla Cecoslovacchia e dal Caucaso, e scrive appunto questo articolo: per i profughi siriani l'Europa non basta. Mentre osserviamo le immagini di migliaia di rifugiati ammassati sulle strade e sui treni d'Europa, non dobbiamo dimenticare una cosa: le ragioni del loro esodo si trovano in Siria. La guerra civile siriana è il peggior disastro umanitario della nostra epoca. I siriani sono ormai il più numeroso gruppo di rifugiati del mondo. Più della metà dei 22 milioni di abitanti della Siria ha dovuto lasciare la propria casa, e 4 milioni sono fuggiti all'estero, soprattutto nei paesi vicini come Libano, Turchia e Giordania. È importante ricordare queste statistiche perché finora l'Europa ha accolto solo una minima parte dei siriani costretti all'esilio. E a proposito di, torniamo un attimo sulla vicenda Volkswagen, perché è chiaro che viene colpito un simbolo della Germania, dell'efficienza tedesca. Volkswagen era ormai, insomma, se la giocava con la Toyota come primo gruppo automobilistico al mondo, in Germania era considerato appunto il fiore all'occhiello dell'industria automobilistica. Volkswagen in origine significa la macchina del popolo, era nata per, un po' come la Fiat in Italia, per dare la possibilità a tanti tedeschi di avere una vettura nella seconda, subito dopo la seconda guerra mondiale. Per i tedeschi credo sia un durissimo colpo questo della reputazione perduta, perché di questo si tratta, della Volkswagen. E Le Monde però scrive in un editoriale, anche in questo caso riportato da Internazionale, che è in edicola proprio in questi giorni: un colpo all'Europa. Lo scandalo è enorme, la Volkswagen rischia di rimetterci la reputazione e moltissimi soldi. Il gruppo tedesco, che si contende con la giapponese Toyota il titolo di maggiore produttore di automobili al mondo, ha mentito sull'emissione dei motori diesel dei suoi modelli venduti negli Stati Uniti. Circa 500.000 di veicoli avevano un software che modificava i dati sulle emissioni inquinanti in caso di test, e questo aggiungo lo sappiamo. E allora la conclusione: di fronte a un'opinione pubblica sospettosa e sensibile alle teorie del complotto, getta credito sulla buona fede delle imprese e degli scienziati. No, questa vicenda non è solo un problema della Volkswagen, e per questo è ancora più imperdonabile. Un'ultimissima segnalazione, grazie sempre alla traduzione che ne fa Internazionale sul numero di questa settimana, un'occasione da non perdere: il titolo dell'articolo pubblicato da Tovima, che è un quotidiano greco, sulla questione della vittoria di Syriza in Grecia. Vi leggo le ultime righe. La sfida è enorme, ma oltre a godere della fiducia del popolo, questa volta il primo ministro Tsipras ha anche l'esperienza e il potere, conosce il funzionamento delle istituzioni europee ed è consapevole degli equilibri geopolitici in gioco. Non può fallire, spetta a lui dimostrare di avere la capacità di diventare un vero statista. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.